fra le piante di mango che si udiva quel canto di magia e divinità. Cordigliera imponente fra foreste e palazzi ed antiche civiltà. I due oceani come un velo di omertà, per i più nasconderà. Terra di conquista, in nome di un dio egoista, arrivò la civiltà. Fatta di sangue e violenza, preghiera, penitenza, finto amore e carità. Nel dolore un mondo nuovo sorgerà, usurpando avanzerà. Mare amico, chi proteggerà? La mia gente, chi proteggerà per me? La mia gente, chi la salverà per me? Poi gente nera, nera come la sera, dall'oceano arriverà. Non a passo di danza, fa frustate violenza, il tamburo suonerà. Nuovi ritmi e suoni insieme fonderà. Il meticcio canto che ora s'alzerà per me. Vento amico, la mia gente, mescolanza delle più diversità. Adesso siamo un padrone, una triste realtà. Un tu sia nero rapito, poi nato e cresciuto, stessa sorte toccherà. Un dittatura e cultura, polizia e poesia, ignorante povertà. Allora rivoluzione, cambia sempre il padrone, ma sarà poi verità. Ma una voce chiara per chi ascolterà, fuori necesitas.